La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, questo giovedì 31 di marzo 2016, sono le 16:32 primi 18 secondi, siamo in diretta qui dagli studi di Milano di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre e vi annuncio che la puntata di oggi, più che chiedervi di intervenire, vi chiedo per una volta di ascoltare. Perché? Perché abbiamo un ospite, non voglio dire straordinario, ma insomma molto particolare, a cui tengo molto, che è Carlo Cottarelli. Carlo Cottarelli lo ricordate, molti di voi, come ex commissario del governo italiano per la Spending Review, è tornato al Fondo Monetario Internazionale come direttore esecutivo al Fondo Monetario Internazionale. Non parliamo oggi, ancora una volta, della sua esperienza della Spending Review, parliamo di un libro che a me è piaciuto tantissimo e che io invito tutti calorosamente a comprare e a leggere, perché mi è piaciuto tantissimo. Innanzitutto vi dico il titolo, ve lo ripeterò più volte nel corso della trasmissione, il titolo del libro è Il Macigno, il sottotitolo Perché il debito pubblico ci schiaccia è in rosso, come il titolo Il Macigno, e come si fa a liberarsene. E come si fa a liberarsene? L'editore è Feltrinelli, sono 170 pagine per 15 euro che si leggono rapide. A me questo libro è piaciuto moltissimo e vi dico perché. Perché è un libro in cui si affronta il problema fondamentale, insieme alla produttività, però il problema fondamentale, perché di questo si parla molto, la produttività meno, però il problema fondamentale, cioè il debito pubblico italiano rispetto alle condizioni che abbiamo di bassa crescita dell'euro, eccetera, eccetera, lo si fa, punto numero uno, con un linguaggio piano, quindi non è solo un libro per economisti, ma in maniera però allo stesso tempo senza eludere nessuna delle questioni di rigore economico affrontando i diversi temi, e quindi alla portata di tutti, e ha un'altra caratteristica per la quale io ve lo consiglio molto. Comunque la pensiate su questo tema, siate per l'uscita dall'euro, siate convinti che l'Europa c'è un disastro, siate convinti che bisogna operare in qualunque altro modo, però vale la pena perché passa in rassegna in maniera piana, in realtà tutte le diverse, da diverse parti avanzate, soluzioni possibili per la risoluzione del debito italiano alle condizioni date nel nostro paese, ed esamina le quattro ipotesi fondamentali che vengono avanzate da punti di vista diverse, e per ciascuna delle queste fa un esame di quello che costerebbe e di quello che significherebbe, ed è questo che mi interessa molto. Quindi è una maniera di entrare nel vivo del dibattito pubblico italiano, come non si fa in nessun talk televisivo, perché non c'è tempo, non c'è modo, non si possono mai approfondire gli argomenti, eccetera, eccetera, per poi arrivare a una sua soluzione. E questa soluzione è una soluzione che ha ultimo pregio, prima di cominciare con l'ospite, una ragionevole, secondo me, possibilità di essere percorsa senza tutti quei danni e costi sociali, eccetera, eccetera, che invece nel dibattito pubblico italiano finiscono per essere prevalenti ormai negli ultimi due anni, quando si evoca la parola austerità e si fa confusione su che cosa possa voler significare. Vi dico subito che io do per scontato qui, per così dire, la parte iniziale del libro, che è comunque utile a voi tutti, perché passa rapidamente in rassegna le quattro diverse fasi nelle quali si è formato il debito pubblico italiano, vi ricorda in che cosa consiste il debito pubblico del nostro paese e perché è fatto per l'85% da titoli pubblici in diversa scadenza, comprende anche le monete, è escluso, cioè non fa parte del debito pubblico il debito commerciale con le imprese e i fornitori, né il debito attuariale, cioè quello che si deve ai diritti che matureranno nel tempo per la previdenza, per la sanità e così via. Dopo aver ricordato appunto in che cosa consiste, quando e perché diversamente nel tempo è cresciuto fino ad arrivare al peso attuale sul PIL, 132% del PIL, dopo avervi ricordato che è vero, il debito pubblico nei paesi avanzati del Giappone e della Grecia di parecchio superiore al nostro, però se andiamo a vedere il debito netto pubblico, quello del Giappone in realtà è molto da riconsiderare al ribasso, e quindi quello della Grecia batte tutti, ma poi come secondi veniamo noi, arriva subito ad affrontare le quattro diverse soluzioni possibili prima di arrivare alla sua. Allora, io intanto, dopo questa premessa, ringrazio Carlo Cottarelli di aver accolto l'invito di essere con noi oggi per parlare di questo libro. Grazie. Grazie a voi dell'invito. Allora, iniziamo a vedere capitolo per capitolo queste quattro soluzioni possibili. Quindi io la invito a ricordare che abbiamo più o meno 20 minuti, quindi le risposte chiare, secche e un po' brevi. Perché quali sono le quattro diverse soluzioni avanzate da diversi punti di vista per affrontare il macigno del debito pubblico italiano alle condizioni attuali? La prima è l'uscita dall'euro. La seconda è il ripudio del debito, parziale, totale, oppure una ristrutturazione del debito. Anche qui, da vedere, la si può fare uscendo dall'euro, dicono alcuni. C'è anche il caso della Grecia, di una ristrutturazione molto rilevante fatta stando nell'euro. E qui c'è una riflessione da fare, perché il caso greco ci insegna che, come si vede, non è così facile. Sono stati commessi errori nel primo programma di sostegno alla Grecia, corretti nel secondo, ma insomma siamo al terzo e ancora non si dimostra come una via facile da seguire. La terza, quella che invocano molti, la mutualizzazione del debito. Perché la Germania non accetta l'idea di mettere quote comune di debito rispetto al debito invece che resta a carico di ciascun euro membro? Bisogna accettare la mutualizzazione. La quarta, cessioni massicce dell'attivo patrimoniale pubblico. E poi arriveremo alla fine, alla quinta, quello che invece propone Carlo Cottarelli e che, a dirvi la verità, sia pure con due osservazioni, condivido anch'io. Cominciamo dalla prima, Carlo Cottarelli. Quando diversi economisti e soprattutto parti politiche del nostro paese dicono c'è un'unica vera modo per diminuire questo macigno nel debito pubblico che strozza la nostra economia, è quello di uscire dall'euro. Qual è la sua risposta? Una fondamentale è che se si vuole usare la propria moneta per ripagare il debito pubblico, questo porta a un'ondata di inflazione e quindi ci abbiamo anche provato, non è che non ci abbiamo provato, negli anni 70 si faceva proprio quello, il finanziamento del deficit pubblico era in buona parte fatto con moneta, avevamo un'inflazione al 25%. Ecco, se si fanno un po' di calcoli si vede che per abbattere il debito pubblico rapidamente, a parte che è difficile in questo momento aumentare l'inflazione, ma se l'Italia uscisse dall'euro, faccio per dire, cominciasse a stampare moneta e a distribuirla, certo molto rapidamente l'inflazione aumenterebbe. Credo che però nessuno voglia più tornare ad avere un'inflazione del 25% o anche più alta. Io ho lavorato qui al Fondo Monetario su paesi come la Turchia, che negli anni 80 e 90 usavano proprio questo sistema per ripagare il debito pubblico, si trovavano con un'inflazione del 100% e fra l'altro con tassi di interesse ancora più alti, non più bassi, tassi di interesse nominali del 120-130%, quindi tassi reali comunque elevatissimi. Quindi non mi sembra una soluzione molto brillante. Lei lo sa che ci sono economisti italiani sostenitori da tempo dell'uscita dall'euro come soluzione di questo problema. Alberto Bagnai, che per esempio elencano decine e decine di casi in cui nel secondo dopoguerra si è assistito alla creazione di nuove monete o al salto di PEX, cioè di tassi di cambio fissi, tra monete, senza che questo in molti casi abbia determinato delle conseguenze traumatiche. Hanno torto? Quella è un'altra questione, quella è quanto costa la transizione, il passaggio. Questi casi sono stati soprattutto casi di stati che diventavano indipendenti, cioè non era un fallimento di un progetto economico. Il problema è che l'uscita dall'euro sarebbe anche percepito come un fallimento economico e quindi per definizione sarebbe visto proprio un tentativo di uscire dall'euro per poter stampare liberamente la propria moneta, il che creerebbe inflazione, cioè aumenterebbe, sparirebbe da un lato il rischio di non essere ripagati, perché se lo Stato può stampare la propria moneta può ripagare, però aumenterebbe enormemente il rischio di essere ripagati con carta straccia, da cui quindi deriverebbero comunque tassi di interesse molto elevati. Però ancora un argomento di quelli che vogliono uscire è la bassa crescita italiana si deve all'euro. Si deve all'euro perché in realtà l'euro nasce come una moneta comune, ma non è un'area monetaria ottimale. Non abbiamo unito, né la politica ci pensa minimamente a unire davvero i mercati del lavoro, dei beni e dei servizi sottostanti, tranne quello dei capitali. Quindi le curve di costo restano drammaticamente diverse in ogni paese. In queste condizioni date, un unico tasso di interesse crea effetti asimmetrici e quando arrivano le crisi finanziarie, per ragioni varie diverse, gli effetti di diventano a loro volta asimmetrici e quindi non potendo svalutare monetariamente se uno non ha una propria moneta nazionale, l'unica maniera è la deflazione interna, cioè la diminuzione in termini reali delle retribuzioni o dello stock degli occupati, e questo è il problema. E a questa osservazione come si risponde? Questo è un argomento più valido su cui ho pensato molto. E noi siamo entrati nell'area dell'euro probabilmente impreparati, con una dinamica dei prezzi e delle retribuzioni all'inizio degli anni 2000 che era ancora troppo forte. Abbiamo accumulato un deficit di competitività. Allora uno può dire, beh, ma per tornare a crescere, per recuperare competitività dobbiamo svalutare, non lo possiamo fare perché c'è l'euro, allora usciamo dall'euro. Se mi permette, abbiamo iniziato questo processo 10 anni prima di entrare nell'euro, quindi non coincide con l'euro. Non è stato l'euro a determinare il fatto che il club italiano rispetto a quello di altri paesi avesse una dinamica completamente fuori controllo? Sì, però fino a un certo punto, negli anni 90 noi ancora crescevamo in termini di reddito pro capite, esatto, in linea con gli altri paesi europei. Quando in realtà abbiamo cominciato a soffrire in termini di crescita pro capite è stato con l'inizio degli anni 2000, quindi per questo io faccio riferimento, e lì è quando si è introdotto l'euro, per cui uno dice, beh, ma se da allora abbiamo cominciato a perdere competitività in maniera più massiccia, allora lì c'è un problema fondamentale. Ora io dico, questo problema c'è un problema di competitività che si è accumulato, però prima di tutto se uscissimo dall'euro e svalutassimo, comunque ci sarebbe comunque un costo reale per l'economia, un taglio reale dei salari ci sarebbe comunque dovuto tramite l'inflazione e la svalutazione. E l'altro punto è che ci sono stati paesi come la Spagna che fino al 2000 avevano accumulato avevano perso competitività tanto quanto ne avevamo perso noi e poi sono riusciti a recuperarla senza uscire dall'euro e adesso stanno crescendo al 3%. Quindi fondamentalmente il problema si può risolvere anche di competitività e lo si sta risolvendo in parte senza uscire dall'euro. E comunque anche uscendo dall'euro il problema della competitività comparata a quel punto resterebbe, perché non sarebbe solo la svalutazione in termini monetari dei rapporti commerciali sui mercati a poter riparare ovviamente a un gap di competitività e produttività che non è solo il club, è la produttività multifattoriale, il rendimento del capitale finanziario, degli intangible eccetera eccetera, lo dico per chi ci ascolta. E quindi questa prima soluzione non funziona secondo lei, da quello che scrive ci spiega. Seconda soluzione: ripudiare il debito, ristrutturarlo. In definitiva il Fondo Monetario è lì per quello, al mondo per aiutare i paesi alla ristrutturazione del debito, e come ci insegnano economisti come Reinhardt e Rogoff, dall'Ottocento a oggi abbiamo avuto 360 rotti casi nel mondo di ristrutturazione e ripudio del debito. Perché no? Ma fondamentalmente perché 2/3 del nostro debito è detenuto dagli italiani stessi. Spesso si vede la ristrutturazione del debito come un'alternativa all'austerità, ma se io non ripago il debito e il debito è detenuto dagli italiani, sto fondamentalmente tassando gli italiani. In particolare tasso quegli italiani che hanno creduto nei titoli di Stato italiani e hanno investito in titoli di Stato italiani. Invece di restituire 100, quanto era stato preso a prestito, io restituisco 80, è una tassa, e quindi in quanto tassa ha un effetto recessivo come ogni altra tassa, quindi è illusorio pensare che questa sia una soluzione dal problema del debito che non ha costi, ha esattamente gli stessi costi di una austerità fiscale, fra l'altro molto concentrata nel tempo, perché si tratterebbe di una tassa che colpisce immediatamente chi detiene titoli di Stato. Lei ricorda anche che siccome a detenerlo circa 400 miliardi sono in pancia alle banche italiane, in questo processo di riaccentramento della detenzione in mani nazionali del debito pubblico che è diventato molto forte dopo il 2011, che io critico molto perché l'aspetto che rende poi positivo in caso di crisi che salta è quello di aggredire nel patrimonio poi i detentori italiani, e questa è la politica, diventa una succosa possibilità di uscita dal problema da una crisi finanziaria devastante, e a me non piace, però siccome ci sono 400 miliardi di euro di debito pubblico in pancia alle banche italiane, una ristrutturazione significa, e lo ricorda bene lei, che per queste banche, oltretutto, oltre che per le famiglie italiane, a quel punto si creerebbe un problema, perché già sono sottocapitalizzate a quel punto moltissime di loro, e comunque come sistema si creerebbe una condizione nel quale ci si creerebbe un problema di solvibilità del nostro sistema bancario, perché si troverebbero con un patrimonio netto insufficiente. Questo lo osservano pochi, ma secondo me lei ragione a farlo. Però molti dicono, E qui le chiedo la risposta dopo un minuto che segue adesso di circolazione del traffico, di informazioni di servizi. Molti dicono, ma sì, però voglio dire, questa ristrutturazione del debito colpirebbe chi? Le banche? Chi se ne frega? Colpirebbe chi? I ricchi? Chi se ne frega? Perché non farlo? Lei dà una risposta anche a questo. Tra un minuto torniamo con Carlo Coltarelli. Pantera millesimato, l'IRP di Infracom Italia, per le aziende vitivinicole, sempre col TH. Vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, abbiamo con noi Carlo Coltarelli, direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Stiamo parlando di questo suo libro, Il Macigno, un rapido percorso nelle diverse proposte su come affrontare uno dei problemi fondamentali insieme alla produttività della bassa crescita italiana, cioè il debito pubblico, perché il debito pubblico ci schiaccia e come si fa a liberarsene. Abbiamo visto di questo libro, che vi invito a leggere, intanto stiamo affrontando la seconda risposta possibile che da molti viene avanzata. La prima era l'uscita dall'euro, abbiamo sentito Coltarelli che ci dice, ma insomma non mi pare una grande idea perché ha costi molto, molto notevoli, e stiamo affrontando adesso l'idea di una ristrutturazione, di un ripudio del debito pubblico. Molti dicono, questa era la mia domanda, beh sì, ho capito, però i costi sì, andrebbero soprattutto a picchiare i ricchi e le banche, chi se ne frega? Ma dunque no, in realtà le banche, chi deposita soldi in banca non sono i ricchi, esatto. Spesso non soltanto i ricchi, quindi se si vanno a colpire le banche si va a colpire, come abbiamo visto anche di recente, c'è un problema anche di chi ha depositato in banca o chi ha prestato comunque sotto altra forma le banche. Il problema è serio, tant'è vero che nei paesi in cui si fa una ristrutturazione del debito, molto spesso lo Stato poi deve comunque ricapitalizzare le banche proprio perché per non farle crollare, il che vuol dire che però a questo punto il taglio del valore facciale per gli altri deve essere ancora più grande. Questo è quello che è successo in Grecia. La Grecia ha ristrutturato il debito però è cresciuto di poco rispetto al PIL, non soltanto perché il PIL scendeva, ma anche perché appunto si sono dovute comunque sostenere le banche, perché altrimenti l'intero sistema finanziario crollava. Tra l'altro c'è un passaggio in cui apprezzo anche questo, lei parla del fondo monetario che viene visto, dice, come uno strumento per il debito, il fondo monetario per risolvere, ripudiare, voglio dire, ristrutturare i debiti eccessivi, tu lavori al fondo monetario, il fondo monetario è lì per quello, lei ha due paginette su questo che invito tutti a leggere perché spiegano davvero come stanno le cose, però si può anche ristrutturare il debito stando nell'euro, come insegna il caso greco, magari evitando gli errori del primo programma di sostegno, con un po' di cooperazione dei paesi più forti dell'euro, si può farlo anche dentro, o no? Ma insomma, la Grecia l'ha fatto senza grandi risultati, peraltro i problemi della Grecia sono rimasti. Quello che invece è difficile fare è il contrario, uscire dall'euro senza ristrutturare il debito. In linea di principio è possibile ristrutturare il debito senza uscire dall'euro, però come ho detto lì ci sono altri problemi, si tratta comunque di una grande austerità fiscale che colpisce i propri cittadini. Tra l'altro in Grecia un terzo del debito era detenuto internamente, da noi due terzi del debito sono detenuti da italiani. Era tra virgolette più facile da questo punto di vista. Andiamo alla proposta su cui battono quanto resta minoritario del fronte europeista italiano, ci dice no, l'Europa ha una vera strada da percorrere, teste di legno tedesche che vi opponete, questo è naturalmente l'argomento che poi segue subito dopo, ed è quello che bisogna mutualizzarlo il debito, metà del debito pubblico o quello eccedente il 60% deve diventare debito europeo, e se non si fa così l'euro salta e non ha senso. Lei che dice? Che sarebbe bello, però non succederà, non perché i tedeschi o i finlandesi sono particolarmente cattivi, ma perché proprio richiederebbe un grado di altruismo che non esiste neanche in quelle aree economiche che hanno raggiunto un'unità politica, in particolare per esempio gli stati federali. Negli stati federali il debito della federazione deriva da un deficit della federazione, non è che il governo federale... Su questo, guardi, molti che sono in ascolto non viene loro detto, non lo sanno e nessuno è tenuto a saperlo per definizione. Negli Stati Uniti non è vero che interviene la Fed, il Tesoro, chi dite voi, per salvare eventuali stati in default o municipalità o contee in default. È vero il contrario, cioè la California è fallita, New York è fallita. Anzi, nell'Ottocento, fino alla guerra civile e dopo, alla fine della seconda metà dell'Ottocento, fu proprio l'ondata di fallimenti di stati nella seconda metà dell'Ottocento, intorno al 1890 e così via, a determinare il fatto che poi si arrivò anche all'inizio del Novecento alla Fed. Ma non è vero che negli stati federali funziona così. Mi scusi se mi accaloro, ma questo proprio nel dibattito pubblico italiano non si riesce a spiegarlo mai. No, questo è vero per gli Stati Uniti, è vero per altri paesi, stati federali. Ci sono eccezioni, certo, anche negli Stati Uniti dopo la guerra di indipendenza si creò appunto il governo centrale e questo si accollò il debito degli stati, però quello era un debito, esatto, che derivava da una guerra in comune, esatto, e non dal fatto che il sistema del welfare italiano è più generoso di quello di altri paesi, esatto, e quindi, perché ripeto, la California e New York sono trovati invece a fallire, o città come e così via. Andiamo alla quarta soluzione possibile. La quarta soluzione possibile io la liquiderei abbastanza in breve, invitando gli ascoltatori, perché mi interessa arrivare alla fine a quello che propone lei, cioè le cessioni. Io, questa è la mia vera osservazione, io credo che sulle cessioni, soprattutto del patrimonio immobiliare, si potrebbero fare operazioni di un certo peso. Naturalmente non sono alcune centinaia di miliardi di valore teorico del patrimonio immobiliare italiano a dare ciò che serve a passare dal 132% di debito pubblico sul PIL al 60%, ma con un programma decennale credo che insomma un buoni 150 miliardi si potrebbero piazzare. Io penso a veicoli internazionali creati non nel nostro diritto amministrativo ma in legislazioni di paesi di mercato, per esempio in Gran Bretagna, che diano la garanzia con una grande gara internazionale che i player del mondo del mercato del real estate partecipino. Questo penso che si possa fare. Però in definitiva lei dice, dopo aver analizzato in questo capitolo i diversi settori che compongono l'attivo patrimoniale, sì, qualcosa si può fare, bisogna privatizzare, ma bisogna privatizzare più per aprire i mercati che credendo che di lì viene la grande botta per diminuire il debito pubblico. Andatela a leggere, cari ascoltatori, io su questo sono d'accordo. Ma il punto su cui voglio arrivare invece è quello che lei propone, cioè la sua soluzione, scartate queste quattro grandi strade come decisive. In realtà questa austerità di avanzi primari moderati rispetto all'andamento del PIL, e cioè un andamento della spesa che continui a crescere ma meno del PIL potenziale, che ci porta quindi a crescere di più e a diminuire il debito, la possiamo spiegare che è la vera soluzione? Ma insomma, la cosa è abbastanza semplice, basta fare un po' di calcoli, si vede che se noi riusciamo a mantenere la spesa primaria, cioè al netto degli interessi, costante in termini reali, in termini di potere d'acquisto, quindi aggiustandola soltanto per l'inflazione, se lo facciamo per 3 o 4 anni, a questo punto, con un po' di crescita, questo porta il bilancio dello Stato, delle pubbliche amministrazioni, in pareggio. Si raggiunge quell'equilibrio di bilancio che abbiamo pure messo in Costituzione. Questo nel giro di 3 o 4 anni. Una volta che è raggiunto il bilancio in pareggio, non si crea nuovo debito, però il PIL dovrebbe continuare a crescere nei prossimi decenni, diciamo, e questo erode il rapporto tra debito e PIL. E lo erode ad una velocità di circa 3 punti percentuali l'anno, che è abbastanza soddisfacente. Questo non mi sembra un tipo di austerità e di politica che sia particolarmente che sia impossibile da realizzare. C'è un po' di austerità, ma non è un'austerità selvaggia. Naturalmente, che questo significa realizzata. Che quando l'inflazione è bassa, cioè la crescita nominale è bassa, come adesso, e la crescita potenziale dell'Italia non è un granché rispetto a quella degli altri paesi, questo significa che la crescita, ecco, in termini nominali della spesa reale sull'anno deve essere comunque moderata, mentre noi invece li stiamo diminuendo gli avanzi primari. Ma dunque, ovviamente quello che bisogna fare, come dico, è fermare la crescita della spesa reale, mantenerla costante. Se l'inflazione è più bassa, anche la spesa sarà, esatto, la crescita sarà più bassa, però in termini reali si danno gli stessi servizi alla popolazione. Certo che se quando c'è un po' di crescita si aumenta e quindi aumentano le entrate dello Stato, si aumenta la spesa, a questo, esatto, punto non si riesce più a convergere a quell'equilibrio di bilancio che invece bisogna, esatto, bisogna arrivare. E io qui volevo arrivare, perché questo, anche se Carlo Cottarelli non ne parla, è la differenza rispetto a quello che stiamo facendo in Italia adesso, prendendocela con l'Europa, invocando più flessibilità, che può essere giusto o meno, ma invece di sicuro non è la cosa che ci serve. Comunque, Per approfondire ciascuna di queste strade, la proposta di Carlo Cottarelli, comprate e leggete Il Macigno, perché il debito pubblico ci schiaccia, come si fa a liberarsene. Feltrinelli editore, 15 euro ben spesi, perché ne vale davvero la pena. E grazie a Carlo Cottarelli, non solo per essere stato con noi oggi, ma per quello che ha fatto per l'Italia e quello che fa al Fondo Monetario Internazionale. Ci sentiamo domattina alle 8:15 con Alessandro Mina. Attenti a noi due.